giornale radio del Friuli Venezia Giulia. La settimana sociale dei cattolici, le visite a Trieste di Mattarella, di Papa Francesco, il bilancio del vescovo Trevisi. Udine, il nodo sicurezza, in prefettura vertice con le forze dell'ordine, nel pomeriggio consiglio comunale straordinario e stasera la marcia per Shinpei Tominaga, sullo sfondo la protesta degli esercenti contro l'ordinanza anti-alcol. La morte a Percotto di Benito Nonino, distillatore fulcro di un'azienda diventata anche sinonimo di cultura. Presentato il piano energetico regionale, risponde alla crisi climatica, ma tiene conto anche della situazione geopolitica. A Gorizia ha firmato l'accordo di programma per l'aeroporto Duca d'Aosta. Le radici dei friulani d'oltreoceano, a Pordenone è partito il tour dei figli e nipoti di immigrati alla scoperta della regione. Le 12:31 minuti, 30 secondi, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Maria Spezia. La domenica con Papa Francesco ha concluso a Trieste la settimana sociale dei cattolici, che mercoledì si era aperta con l'intervento del Presidente della Repubblica Mattarella. Sono stati giorni intensi, animati da un dibattito di alto livello sui valori della democrazia e caratterizzati da un'ampia partecipazione. Abbiamo chiesto al Vescovo di Trieste, Enrico Trevisi, di tracciare un bilancio della manifestazione che ha dato alla città una grande visibilità. Le sedie accatastate, pronte per partire, i dehors dei caffè hanno rioccupato veloci il loro spazio, Piazza Unità quasi completamente libera. Resta solo il palco, che viene smontato pezzo dopo pezzo. A 24 ore dalla messa celebrata ieri da Papa Francesco a Trieste, la città torna pian piano alla sua normalità, dopo una giornata, quella di ieri, dai messaggi intensi, stimolo di ragionamenti futuri. Scandalizzatevi verso le ingiustizie e le sofferenze dei migranti, ha detto il pontefice, dei migranti, degli ammalati, degli esclusi, ha aggiunto il vescovo Enrico Trevisi, che abbiamo incontrato in curia per fare un bilancio dell'evento. Agli occhi che sorridono il vescovo, chiamato per errore più volte arcivescovo da Papa Francesco, che lo ha elogiato in più occasioni, soprattutto quando ha chiamato i malati per nome. Vescovo Trevisi, perché è così importante, e il Papa lo ha voluto sottolineare dal palco, chiamare le persone per nome? Perché dietro il nome, questa è una qualcosa di biblico. Il nome per la Bibbia è l'identità, è la storia, è la chiamata di una persona. E pertanto nel nome si racchiude l'originalità, la particolarità anche davanti a Dio di quella persona. Non è un'etichetta il nome, è invece riconoscere magari anche il bagaglio di sofferenze insieme anche però di speranze che ci sono in una persona. Essere riconosciuti per nome vuol dire che non si è categorizzati, ma invece si è dentro un cammino di originalità, e perché è questa la proposta cristiana. Non è come in altre prospettive, che so io, dove c'è il popolo, qui c'è anche che ciascuno, dentro dei legami preziosissimi, ma ciascuno davanti a Dio è prezioso e dà, non soltanto da essere riconosciuto, ma anche da dare la sua risposta. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. A Udine tiene sempre banco il tema della sicurezza, su cui da tempo è in corso un vivace dibattito politico a diversi livelli, tra maggioranza e opposizione, nell'ambito del Consiglio Comunale e tra comune e categorie economiche. Primo atto di una intensa giornata questa mattina, un vertice in prefettura. È ancora in corso a Udine il Comitato per l'Ordine e Sicurezza, convocato dal prefetto del capoluogo friulano Domenico Lione, con all'ordine del giorno la delibera comunale che vieta la vendita di bevande alcoliche da asporto dalle 18 nella zona delle Magliane e dalle 21 nel resto della città. Al tavolo, oltre alle forze dell'ordine, il comune con il sindaco, l'assessore Menanzi e Gasparin, la FIPE e la Camera di Commercio. Un incontro che anticipa il Consiglio Comunale straordinario sulla sicurezza previsto oggi al comune di Udine e la manifestazione di Udine Sicura che partirà alle 18:30. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Ritirare il denaro dimenticato da qualcuno allo sportello bancomat equivale a rubarlo, e di furto dovrà rispondere un 23enne triestino per aver preso i 250 euro lasciati nella fretta dal cliente della ZKB che a Opicina lo precedeva nella fila per il prelievo. Pur essendosi subito accorto della distrazione dell'altro, non l'ha avvisato e ha intascato scatole banconote, ma dopo la denuncia effettuata dal cliente distratto è stato identificato dai carabinieri grazie alle immagini della videosorveglianza. Ora dovrà affrontare un processo. In Friuli Venezia Giulia la composizione della popolazione per età di lavoro è sempre più sbilanciata verso la fascia più anziana. 5 anni fa gli over 50 erano poco più del 38%, oggi la loro percentuale è salita fino quasi al 42%, lo afferma uno studio di Confindustria Udine. Nel 2019, prima della pandemia, i lavoratori con più di 50 anni in Friuli Venezia Giulia erano il 38,2% del totale degli occupati. Nel 2023 questa percentuale era passata al 41,8%. Di contro è pesantemente calata nello stesso periodo la fascia di età tra i 35 e i 49 anni, che lo scorso anno rappresentava il 36,5% del totale, rispetto al 40,8% di 5 anni fa. Rimangono invece sostanzialmente stabili in 5 anni le percentuali registrate delle coorti di lavoratori fino a 34 anni. Un effetto quasi inevitabile, rileva lo studio di Confindustria su dati Eurostat e Istat, di una natalità sempre minore, di una popolazione quindi sempre più anziana e dell'aumento dell'età pensionabile. E secondo l'Associazione degli Industriali non è un effetto positivo. Una forza lavoro più vecchia e quindi meno incline al cambiamento, che osa Michele Nencioni, direttore generale di Confindustria Udine, riduce le opportunità di crescita. La percentuale di persone che lavorano tra 55 e 64 anni è in crescita nella gran parte dei paesi europei. Quella della regione resta più alta di quella media nazionale, che è del 57,3%, e anche rispetto a quelle di Austria, Francia e Spagna. Molto più alti i valori che si registrano in Germania, in Svezia e in Islanda, dove continuano a lavorare in questa fascia fette di popolazione che arrivano a superare l'80%. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. È morto la notte scorsa per Coto Benito Nonino, sapiente distillatore friulano che ha saputo trasformare la grappa da liquore popolare a prodotto raffinato. Aveva 90 anni e insieme con la moglie Giannola aveva fatto diventare la piccola azienda di famiglia un marchio noto in tutto il mondo. Benito Nonino, ispirato nella stessa casa in cui era nato il 6 febbraio 1934, una casa azienda in cui oggi lavorano le tre figlie Antonella, Cristina ed Elisabetta e alcune nipoti. Appassionato fin da piccolo dell'attività della distilleria, nel 1973 realizzò la prima grappa monovitigno Picolit, una svolta. Con il tempo e la crescita del marchio in ambito nazionale e oltre confine, Benito e Giannola hanno costituito l'omonimo premio Nonino, che ha una giuria di alto livello internazionale che negli anni ha premiato diversi tra scrittori e uomini di scienza che poi avrebbero ricevuto il premio Nobel. Passiamo alle parole del Consiglio regionale. La manovra estiva di assestamento tra oggi e domani completerà l'iter nelle commissioni consiliari. Questa mattina i documenti di bilancio sono al vaglio della quinta commissione. Ci aggiorna in studio Eva Ciuc. Buongiorno. La manovra estiva aggiunge 40 milioni da destinare alla cultura e allo sport, 40 milioni che si aggiungono ai 92 milioni già previsti nel bilancio per il 2024. La manovra da 132 milioni è stata comunque dunque illustrata alla quinta commissione dall'assessore Mario Anzil, che ha precisato che tanta attenzione è stata inevitabilmente rivolta alle iniziative di avvicinamento a Nova Gorica, Gorizia, capitale europea della cultura. In primo piano anche la manutenzione e il completamento dei lavori di miglioria degli impianti natatori, 800.000 euro, in particolare quelli di Gorizia, Nuoto e la Tomadini di Udine. Altri 3 milioni sono stati destinati per gli altri impianti sportivi, altri 2 milioni invece per il recupero e la realizzazione di aree ludiche e spazi urbani come i campi da basket, pallavolo e calcetto all'aperto. Al centro del dibattito con i consiglieri la decadenza del limite del legame parentale tra i beneficiari e mercenari per gli incentivi previsti dall'Art Bonus e dallo Sport Bonus. E poi la cultura. Tra le novità, 700.000 euro da destinare al restauro degli affreschi sugli edifici visibili dalle vie, dalle piazze, dunque anche su edifici privati, il progetto di costituzione dei sistemi bibliotecari, la valorizzazione e la catalogazione dei beni culturali anche nei piccoli musei, dunque nei comuni più piccoli, poi la Fondazione Casa del Cinema Chiscia Film a Gorizia, il contributo di 60.000 euro per l'attività di promozione legate alla candidatura di Pordenone a capitale italiana della cultura e gli incentivi per gli interventi di manutenzione e miglioramento delle sale cinematografiche. Tutto. Grazie Eva Ciuc. In un incontro aperto a tutti organizzato da Open Sinistra FVG nel pomeriggio a Udine si parlerà del tema voce agli invisibili, ovvero le problematiche invisibili nei centri per l'impiego. Sotto la lente le cause profonde dell'emarginazione e le sue conseguenze su salute e benessere, con l'obiettivo di analizzare le risposte delle istituzioni per renderle più efficaci. L'incontro a Palazzo Belgrado dalle 17.30 sarà aperto da un intervento di Marilena Esposito, docente del Centro Provinciale Istruzione Adulti di Udine, e sarà seguito da racconti e testimonianze dirette degli invisibili, oltre a interventi di associazioni e di rappresentanti delle istituzioni. Risponde alla crisi climatica e tiene conto della situazione geopolitica per la guerra in Ucraina il piano energetico regionale che è stato presentato questa mattina a Trieste nella sede di Via Carducci. Indipendenza e sicurezza sono i due macro obiettivi del nuovo piano energetico regionale su cui si lavora da 2 anni e che punta a fornire le basi per la transizione energetica della regione, prevista nel 2045 con 5 anni di anticipo rispetto agli obiettivi fissati dall'Unione Europea. Indipendenza, spiega l'assessore regionale all'ambiente Scoccimarro, significa aumentare l'efficienza degli impianti e ridurre i consumi, oltre ad accrescere la produzione di energia da fonti rinnovabili, che in regione sono soprattutto fotovoltaico e biomasse. Per sicurezza, il riferimento è la complicata situazione geopolitica che dal Covid e l'attuale guerra in atto ha messo in difficoltà la garanzia della fornitura energetica. Per questo l'obiettivo regionale è puntare all'autoconsumo e sul miglioramento delle reti per ridurre in generale la dipendenza dal gas naturale, che si è dimostrato, ha detto il direttore centrale per la difesa dell'ambiente in regione, Massimo Canali, il combustibile meno sicuro e meno indipendente. Il piano dunque ridurrà l'uso dei combustibili fossili, aumenterà le fonti rinnovabili, soluzione che mitigherà anche gli effetti dei cambiamenti climatici. Porterà con sé, spiegano, anche nuove opportunità economiche e sociali, con posti di lavoro green e con maggiore ricerca sul territorio. Da oggi si è aperto il periodo di consultazione pubblica, che durerà 45 giorni. Tutti i soggetti coinvolti, dalle autorità fino alle aziende e ai cittadini, potranno presentare pareri e osservazioni sul piano, che saranno recepite e integrate. Il piano poi dovrà passare per il parere del CAL, quello della quarta commissione consigliare, e sarà pronto, secondo le previsioni, entro fine anno. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Nel municipio di Gorizia è stato sottoscritto poco fa l'accordo di programma per la valorizzazione e l'adeguamento dell'aeroporto Duca d'Aosta tra la Regione, il Comune e la società consortile che gestisce lo scalo. La Regione metterà a disposizione 2,5 milioni di euro. Ammontano a 2,5 milioni di euro i fondi stanziati dalla Regione per i lavori di adeguamento e valorizzazione dell'aeroporto Duca d'Aosta di Gorizia, in base a un accordo di programma firmato questa mattina nel municipio del capoluogo isontino dal sindaco Ziberna, dall'assessore regionale alle attività produttive Bini e dal presidente di ADA, la società che gestisce lo scalo, Antonino Vivona. L'area interessata dai lavori, che dovranno concludersi entro maggio, con la speranza, ha detto Ziberna, che potranno essere più veloci già in vista dell'inaugurazione di Go 2025, è di 150 ettari. Si partirà con la bonifica di eventuali residuati bellici per passare poi a disboscamento e potatura, ripristino della recinzione e creazione di 5 cancelli di accesso, posa dei sottoservizi, acqua, fognature, elettricità e fondazioni stradali. Ma il punto di svolta per uno degli scali aeroportuali più antichi d'Italia sarà la posa di attrezzature, allestimenti e impianti per la realizzazione di eventi. In primis, grandi concerti. Il campo di volo del Duca d'Aosta, hanno ricordato Bini e Ziberna, è infatti l'unico sito in regione in grado di ospitare eventi che richiamino un pubblico nell'ordine delle centinaia di migliaia di persone. Non si tratta di un investimento solo per Go 2025, ma anche per gli anni successivi, ha detto Ziberna, spiegando che gli interventi saranno sperimentali e l'attività di volo rimarrà largamente preponderante. Resta il nodo dell'ospitalità che, ha detto Bini, la Regione sta lavorando per potenziare. Gorizia, Daniele Lettig, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il 2023 sarà ricordato come uno degli anni più dinamici dall'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia, così come è stato evidenziato nel corso dell'assemblea sociale che si è svolta nella sede dell'ente di Codroipo. Il presidente Renzo Livoni ha sottolineato infatti i prezzi di vendita del latte sostenuti oltre i 55 centesimi di euro al litro nella prima parte dell'anno, calata in seguito sotto i 50 centesimi, per poi risalire in chiusura d'anno, che hanno avanzato avvantaggiato gli allevatori, mentre il 2024 sta registrando prezzi tra i 48 e i 50 centesimi. La regione lo scorso anno si è attestata terza dopo Lazio e Campania per produzione diminuita del 7,5% sul territorio, laddove il dato nazionale è stato del 7,7%, mentre nel primo trimestre del 2024 i volumi sono cresciuti dell'1%. Un trend positivo è stato registrato anche dalla piattaforma di commercio elettronico dell'associazione, con un maggior numero di aderenti, oltre 400 prodotti disponibili, a fronte di un aumento anche delle vendite. Riorganizzato infine lo stabilimento di Rodeano per la lavorazione della carne e adeguata ad alcune norme di sicurezza sul lavoro la Malga Montasio, che ora dimostra una più proficua efficienza del lavoro. Alcune decine di corregionali provenienti da oltreoceano sono in questi giorni in Friuli Venezia Giulia per conoscere la terra dei loro avi. Hanno cominciato il loro tour da Pordenone. Un'esperienza molto emozionante per me, star qui conoscendo mia famiglia, mio nonno, mio trinonno viene da qui, mio cognome è Furlan. C'è Giuliana, 25 anni, dal Brasile, arrivata sino a qui alla ricerca delle sue radici friulane, come lei, una trentina di altri corregionali provenienti da Brasile, Canada, Stati Uniti e Uruguay, riuniti dall'associazione EFASCE Pordenonesi nel mondo. Visiteranno varie località della regione fino al 18 luglio, a partire da Pordenone, dove sono stati accolti dall'onorevole Emanuele Loperfido. Gino Gregoris è presidente EFASCE. I nostri progetti hanno l'obiettivo di mantenere proprio salde le radici e far conoscere la terra, la nostra stupenda regione Friuli Venezia Giulia. Una cosa che ogni anno mi colpisce in questi progetti è l'emozione che loro provano ad essere qui a visitare la terra dei loro avi. Io sono siamo da Toronto, siamo qui con la famiglia, la moglie e la figlia, il papà di Valvasone. Che cosa ti lega ancora oggi a questa terra? Per noi come migranti la storia non c'è in Canada, la storia è qua, è la famiglia che è nativa di Friuli. Nostalgia di tornare alla terra nativa. Da dove arriva? New York. Sa qualche parola in friulano? Buongiorno. Tre sorelle brasiliane si sono ritrovate qui. Voglio vedere i posti dei miei parenti e visitare le importanti locali storici. Sono molto contenta. È la mia terra del cuore. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sono le 12:48, passiamo al meteo. Il cielo è sereno, poco nuvoloso su pianure e costa, variabile in montagna. Queste le temperature registrate alle 11 a Trieste, 27 gradi, con mare quasi calmo e temperatura di 27 gradi. A Gorizia 29, Udine 28 gradi, Pordenone 29, in area montana, Tarvisio 23, Tolmezzo 25 gradi, Forni di Sopra 22, Piancavallo 19 gradi, Sappada 21, in quota sul Monte Zoncolan 16, sul Monte Lussari 15 gradi, sulla Costa Grado 28, a Lignano 29. La temperatura del mare in entrambe le località è di 26 gradi. Secondo l'ARPA, nelle prossime ore avremo cielo in prevalenza sereno su pianure e costa, con caldo pomeridiano, cielo poco nuvoloso sulla fascia prealpina, variabile sulle Alpi, dove nel pomeriggio non si può del tutto escludere qualche breve locale rovescio. Passiamo agli spettacoli. Gary Clark è il nome di spicco in una serata di grandi appuntamenti musicali. Il chitarrista texano sarà in Castello per il primo evento di Udine and Jazz, un musicista di straordinario appeal che incarna perfettamente il titolo di quest'anno del festival, Walking on the Blues. Il live comincerà alle 21:30, ma lo precederà un triplo appuntamento a ingresso libero al Parco Moretti. Alle 18 un concerto a sostegno di Medici Senza Frontiere e a seguire Peace in Space con il trombettista Flavio Zanuttini e il batterista e percussionista Zlatko Kaučić. Chiusura con il duo Koyanitz Turchete e il loro progetto Madeleine. Parte anche Trieste Loves Jazz con un doppio concerto questa sera nel giardino del Museo Sartorio. Di scena il New Trio che ospita Mario Rosini e poi Charlie Mingus rivisitato dal quintetto Viceversa, capitanato da Giovanni Maier. A Pordenone parte invece il Blues & Co. Festival al Parco del Valentino alle 19:15, i Creeping Jean e alle 21 i Rival Sons. Doppio appuntamento da non mancare. Ancora musica, è l'undicenne sudcoreano Ryu Yun-suk, il vincitore del primo premio al concorso Il piccolo violino magico, che si è concluso a San Vito al Tagliamento. Il giovanissimo musicista ha ricevuto una borsa di studio di 5.000 euro e un pregiato violino Piagentini realizzato con il legno della foresta di Tarvisio e donato dal Festival Risonanze. A Yun-suk è andato anche il premio del pubblico, che gli offrirà la possibilità di esibirsi in due concerti nelle prossime edizioni di San Vito Musica e Alto Livenza Giovani. Il tredicenne cinese Tao Bai ha vinto il secondo premio e sono stati assegnati due terzi premi ex aequo a un altro concorrente cinese e a un'ucraina, anch'essi di 13 anni. Al concorso organizzato dall'Accademia d'Archi Arrigoni hanno partecipato quest'anno 20 concorrenti nati tra il 2010 e il 2014. Elevatissimo il livello tecnico. Chiudiamo con lo sport calcio. È il giorno del raduno ufficiale per l'Udinese, che comincerà la preparazione agli ordini del nuovo allenatore Runjač. I bianconeri proseguiranno il lavoro al Bruseschi fino al 18 luglio, quando saliranno in Carinzia per il ritiro precampionato. E oggi è anche il raduno della Triestina, con le visite mediche e i primi test. Il lavoro comincerà però nei prossimi giorni sul terreno dello stadio Grezza. Da domenica il ritiro a Ravascletto. È tutto per questa edizione, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Roberto Cavallari e Carlo Morello, ha collaborato in redazione Edoardo Veglia. 12 e quasi 52, prossima edizione alle 15, grazie per la vostra attenzione, buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.